Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 € al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info. Questa è tutta Scena Teatro su Radio Onda Rossa, il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Questo è Morte accidentale di una fabbrica, di e con Giuliano Bugani. Al pianoforte Gianluca Nuti. È una città di fabbriche. Anzi, la mia città era una città di fabbriche. Ho visto fabbriche morire, ammesso che una fabbrica possa morire. E lentamente la mia città ha cominciato anche lei a morire. Ammesso che anche una città possa morire. Sicuramente ti posso dire che ho visto fabbriche vivere, perché di sicuro le fabbriche vivono e anche la mia città ha vissuto. I miei amici, operai, hanno vissuto dentro le fabbriche, dentro la mia città. Ho visto fabbricare cose, ho visto fabbricare case, ho visto fabbricare tante cose. Ho visto gli operai la sera, quando uscivano dai cancelli, ho visto le cose che fabbricavano, le ho usate, ho vissuto usando le loro fatiche. Poi anch'io sono entrato attraverso quei cancelli e come loro uscivo la sera. La fabbrica ha un padrone. So che è una parola fastidiosa, ma le cose stanno così. La fabbrica ha un padrone. E se muore la fabbrica, muore anche il suo padrone. No, non è così. Se muore la fabbrica, il suo padrone resta un padrone, eventualmente di un'altra fabbrica. Per il padrone di una fabbrica, quelle mura, quelle pareti, le porte, le sue finestre, i suoi cancelli, la recinzione che per decenni magari l'ha protetta, è solo ferro, è solo cemento. Per il padrone di una fabbrica, la fabbrica non vale niente, sentimentalmente intendo. Lui non esce dai cancelli, lui esce dalla porta della direzione principale. Lui gli operai spesso non li conosce nemmeno. La fabbrica non vale niente dal punto di vista sentimentale, appunto, sentimentale. Dall'altro punto di vista, invece, per il padrone, la fabbrica vale. E come se vale? Ma forse devo partire dall'inizio. Sì, perché c'era una fabbrica, una volta, che prima di diventare così grande era un'altra cosa. Una cosa bella, ma piccola. A Bologna c'è una strada che si chiama Via Ferrarese. E lì, da qualche parte, c'era una cantina sotto un palazzo. E lì sotto c'erano persone che lavoravano. Era il 1952. Un signore, Fini, un piccolo artigiano, si era messo in testa di fare dei compressori d'aria. C'erano lui, la moglie e altre tre persone. Rimase in quella cantina un paio di anni e le cose le faceva così bene che dopo diversi anni trasferì la sua piccola azienda nel comune di Zola Predosa, in provincia di Bologna. Comprò una piccola area in via Rosselli 12 e fece il primo stabilimento della Fini Compressori. Erano gli anni 70. Da poco era stato conquistato lo Statuto dei Lavoratori, tanto per farti capire quello che costruì l'articolo 18. Dirai, cosa c'entra con la storia della Fini Compressori? C'entra, c'entra. Ti dicevo, erano gli anni 70. A contrastare le conquiste dei lavoratori ci si mise di mezzo però il 77. La grande protesta studentesca e operaia che lanciava le prime contestazioni a sindacati e sinistra moderata, il 77. la morte di Francesco Lorusso, Giorgiana Masi, i carri armati a Bologna e poi i neofascisti da una parte e le Brigate Rosse dall'altra. Il mondo stava cambiando rapidamente, noi non ce ne siamo mai accorti, eravamo come addormentati. Ci svegliammo quel 2 agosto del 1980, ma ormai era troppo tardi. Intanto le fabbriche crescevano, cresceva la Finicompressori, da azienda artigiana diventa industria, un nuovo contratto, diritti, solidità, sicurezza del proprio futuro. Fascisti che c'erano, fascisti che ci sono, un'altra storia, storia di un'altra fabbrica, storia di tanti anni fa, storia di pochi giorni fa, OMSA, di Faenza, provincia di Ravenna. Il conte Mangelli era il proprietario della OMSA, era della città di Forlì, come Benito Mussolini. Il conte Mangelli era un grande amico di famiglia del Duce. Ci sono documenti che scrivono di grandissime somme di denaro elargita dal governo fascista da parte del conte Mangelli. I soldi per i fascisti ci sono sempre, fascisti che c'erano, fascisti che ci sono. Ma di questo ti dirò dopo. E a Forlì di soldi ce n'erano pochi, per la gente come me, come te. E dopo ti dirò di quando il personale veniva trovato con il ricatto della povertà. Storia di tanti anni fa, storia di pochi giorni fa. È il 1940, epoca fascista. L'amministrazione comunale di Faenza è governata dal podestà fascista Berti. Podestà, massima rappresentanza locale del fascismo. Il calzificio OMSA nasce a Faenza nel 1941 su iniziativa del conte Mangelli. Le maestranze, mal retribuite, sono in prevalenza donne, ragazze e contadine, costrette a lavorare a ritmi elevatissimi, vengono ricattate, licenziate con estrema facilità. Una storia di ieri, una storia di oggi. L'OMSA, in soli 10 anni, arriva ad essere una delle massime aziende italiane di calzifici. Nel 1944 era stata chiusa in seguito ai bombardamenti e solo grazie al contributo delle lavoratrici, nel 1950 riprende l'attività e produce 3.600 dozzine di calze. Sono presenti 750 dipendenti. Siamo tra gli anni 50 e gli anni 60. Si lavora a cottimo. Fascismi di ieri. È nell'inverno 62-63 che i sindacati e le lavoratrici chiedono di contrattare il salario. Il conte Mangelli offre una quota da ripartire tra tutte le sue aziende. Le lavoratrici rispondono con la lotta sindacale. Il conte Mangelli ricorre alla serrata e licenzia 60 lavoratrici. Le risposte del conte Mangelli sono sempre una sorta di rappresaglia, fascismi di ieri. Eppure il conte Mangelli i soldi per il regime fascista li trovava sempre. E come se li trovava? Lo finanziava, lo foraggiava. Ma pagava il fascismo o pagava i fascisti? Non è la stessa cosa. Può sembrare, ma non lo è. Intanto l'OMSA prende sempre più forza la coscienza operaia. Ed è nel grande movimento del 68 che l'OMSA raggiunge uno dei risultati sindacali più importanti a livello nazionale. Le risposte del conte Mangelli ogni volta davanti ad una vittoria sindacale dei lavoratori sono ancora rappresaglie. La crisi che coinvolge l'OMSA all'inizio degli anni 70, dovuta a mancanza di ammodernamento dei macchinari, porta alla prima cassa integrazione nella fabbrica. Il 22 marzo 1973 si svolge a Faenza la più grande manifestazione operaia della storia faentina. 15.000 persone scendono in piazza in solidarietà con le lavoratrici dell'OMSA. Tutti i comuni limitrofi, le categorie dei commercianti, tutte le categorie dei lavoratori, il movimento studentesco, i sindaci. nella trattativa a rappresentare l'OMSA il marchese Rodino annuncia l'intenzione di licenziare 257 lavoratrici e lavoratori. Tra i licenziati, tutti gli attivisti sindacali, donne con figli a carico, lavoratori anziani. La lotta dell'OMSA si sposta a Milano. Nel frattempo lo stabilimento distaccato dell'OMSA di Fermo, che doveva assumere 3.000 dipendenti, ne conta solo 500 e tutti in cassa integrazione. Dopo poco tempo lo stabilimento di Fermo chiuderà completamente. Fini intuisce da subito l'importanza del mercato italiano in forte sviluppo, soprattutto per un prodotto come quello che ha creato. Diventa agente di se stesso, gira l'Italia, l'azienda cresce ancora, il mercato vuole il suo prodotto, il Sud. Il Sud pensa, una parte dell'Italia che sta crescendo più velocemente di altre zone, la Puglia, una regione fortemente sviluppata industrialmente, un potenziale commerciale enorme. Fini decide di andare ad una importante fiera proprio là, in Puglia. Ma le cose a volte sono a metà della nostra strada. Noi siamo in mezzo. Gli siamo in mezzo. E allora, se non ci svegliamo in tempo, rischiamo di terminare il sogno troppo in fretta. Fini muore in un incidente stradale e il suo sogno finisce. L'azienda riesce a mantenere il filo della ragione con la presa della direzione da parte della moglie, la signora Maria Gubellini. L'azienda avverte il colpo, ma della direzione aziendale ci sono anche uomini capaci. Il direttore dell'ufficio tecnico, Zecchini, il direttore generale, Montanari, e il direttore di produzione, Mattei. Buoni direttori, sì, ma dove va un'azienda se non ci sono buone mani a produrre? E se le parole hanno un senso, se ti dico direttore di produzione, beh, produzione sta per lavoratori, o no? Le cose vanno bene. L'azienda continua a crescere e nel 1983 la famiglia Fini acquista un terreno in via Vignoli, nel comune di Zola Predosa. Costruisce uno stabilimento nuovo e vi trasferisce una parte della produzione di via Rosselli. Dopo 10 anni, la Fini Compressori è l'azienda leader nel mondo. ...350 sono le persone che ci lavorano. La Fini Compressori riesce addirittura ad assorbire altre aziende del settore. La Comaria di Sala Bolognese e la Dari di San Lazzaro di Savena. Servono spazi nuovi. Intorno al 1995 l'amministrazione comunale di Zola Predosa vende un grande appezzamento di terreno alla famiglia Fini. Una grande area verde, dove ci sono campi e aree sportive improvvisate. Tantissimi ragazzini passano i pomeriggi a giocare a pallone. Ma l'azienda vuole ingrandirsi, potrebbe andarsene altrove. E per un comune un'azienda è importante, molto importante. Lo è per i cittadini che ci lavorano, che ci pagano le tasse. Meno pallone e più compressori allora. Ma il terreno è pubblico, ma il terreno è dei cittadini, ma il terreno però lo compra l'azienda, anzi lo compra Fini, a prezzo agevolato, ma ad un patto. L'azienda non dovrà mai andarsene via da questo comune. L'accordo viene sottoscritto da azienda e comune di Zola Predosa. L'area è compresa tra via Toscana e via Lazio. Te l'ho detto prima, le cose a volte sono a metà della nostra strada e noi siamo in mezzo a quella metà. E alla fine degli anni 90 il direttore generale Montanari muore. La direzione dei figli Carla e Marco si alternano, ma sono due visioni molto diverse riguardo la conduzione di una grande azienda qual è ora la Fini Compressori. Nel 2002 una parte dello stabilimento di via Rosselli viene venduto, è il segnale. Qualcosa comincia a non funzionare come dovrebbe, o almeno come era andato fino a quel momento. Finisce il frutto del lavoro del direttore generale Montanari. Le cose a volte sono a metà della nostra strada. Il declino ha inizio. Adesso c'è un nuovo direttore generale, il dottor Panza, ma le redini le tiene ben salde Marco Fini. Nel 1976 il conte Mangelli cede l'OMS all'avvocato Gotti Porcinari. Per i dipendenti sono nuove pene. L'avvocato Gotti Porcinari non paga le lavoratrici e i lavoratori e si avvarrà dell'amministrazione giudiziaria chiedendo il licenziamento dei dipendenti. Dopo un non troppo lungo iter giudiziario, l'avvocato Gotti Porcinari finirà condannato e entrerà in carcere. Un nuovo acquirente rileverà l'OMS. Sono i titolari di un altro colosso, la Golden Lady, i fratelli Grassi. Riassumeranno 300 dipendenti, ma 240 resteranno fuori. Nel 1991 l'OMS Golden Lady deve ammortizzare il crack dell'avvocato Gotti Porcinari, 170 miliardi di lire. L'operazione riesce. L'OMS è temporaneamente salva. Il nuovo titolare, Nerino Grassi, rinnova le macchine della produzione, circa 10 miliardi. Costruisce uno stabilimento nuovo, circa 20 miliardi. Il 10% della produzione nazionale di calze e della nuova OMS. Ma a metà del nuovo decennio, del nuovo millennio, un nuovo campanello d'allarme. L'azienda di Fognano, nel 2004, la Texline, che lavora come indotto per l'OMS, licenzia 70 dipendenti e chiude. Nel 2007 Grassi decide di chiudere anche lo stabilimento OMS di Faenza, quasi 400 posti di lavoro. Ed è proprio in questo periodo che Grassi chiede all'amministrazione comunale di Faenza di trasformare l'area dove ha sede l'OMS. Il sindaco spiega che ci sono difficoltà e tempi lunghi. Poteva dire che era contrario, invece parla di tempi lunghi. Tempi lunghi. Cosa significa? Che si può fare? Nel 2005 anche l'altra parte dello stabilimento di Via Rosselli viene definitivamente venduta dalla proprietà Fini. Non ci vuole molto a capire che il rischio di crisi interna arrivi in fretta, più in fretta di quanto ci si può aspettare. Ci sono lavoratori che lasciano l'azienda, chi va in pensione non viene sostituito, blocco del turnover, zone di produzione intasate dall'accumulo di materiale, in quanto le aree di altri stabilimenti sono stati appunto venduti. Insomma, dov'è la Fini compressori di soltanto pochi anni fa? Nel 2008 il declino inesorabile mostra la faccia più vera. Cassa integrazione a rotazione per 100 lavoratori fino alla fine del 2009. 2 anni di cassa. Il magazzino di Via Lazio viene messo in vendita e trasferito in Via Toscana, dove c'è verniciatura, magazzino ricambi, spedizione Italia, montaggio elettrocompressori. Nell'ottobre del 2009 le rappresentanze sindacali unitarie firmano un accordo con azienda e regione, il quale prevede 6 mesi rinnovabili di 6 mesi in 6 mesi. Ancora, nel 2009 lo stabilimento di Via Vignoli viene venduto e tutto viene trasferito in Via Toscana. Te l'ho detto, segnali. Segnali fin troppo evidenti. I lavoratori hanno capito, tutti hanno capito dove si andrà a finire, come si andrà a finire, ma si fa finta che niente stia accadendo. I lavoratori che denunciano i propri timori vengono quasi emarginati. Si cerca di nascondere la testa, ma la testa, quella finanziaria, sono le banche. Le banche sono il braccio armato del capitalismo, ma c'è un altro soggetto in tutta questa storia del quale non ti ho ancora parlato. New Air, un'azienda di roba al somero in provincia di Torino, con 750 dipendenti e 9 sedi nel mondo, da Shanghai a Hong Kong, agli Stati Uniti, in Europa, est europeo. E sai cosa produce? Compressori, con un fatturato di circa 200 milioni di euro l'anno. Soldi, tanti soldi, che entrano ed escono dalle banche e dai paesi. Non so se le cose stiano come ti dirò, ma ho la sensazione che dietro ogni cosiddetta ristrutturazione aziendale ci siano loro. Le banche. Sai cos'è una ristrutturazione? È quando licenziano i lavoratori per speculazioni economiche. Ristrutturazione è una parola che non fa male a nessuno. Non è che piace, ma almeno ti fa sembrare di non capire cosa ti accadrà di lì a poco. E così te ne stai tranquillo, con la testa sotto, nel buio, a non vedere loro. Le banche invece ci vedono bene, e come se ci vedono. Sentono l'odore, come avvoltoi. Siamo nel 2009. Grassi mette in cassa integrazione ordinaria 356 lavoratrici e lavoratori per 43 settimane, fino al 16 gennaio 2010. Dopodiché scatterà automaticamente la cassa integrazione a zero ore. E qui comincia un'altra storia. Una storia di nuovi fascismi. Fascisti che c'erano, fascisti che ci sono. E dalla storia di tanti anni fa alla storia di pochi giorni fa. Fascisti di oggi. Un gioco. È tutto un gioco. Ci sono cose che cominciano a essere cose che non sono normali in un'azienda. Io non ti so dire se è un gioco. Ma proprio quando alla OMSA, nel 2009, viene comunicato che si farà cassa integrazione 4 ore al giorno per un periodo molto lungo, nello stesso periodo trasferiscono a Casal Moro, in provincia di Mantova, nell'azienda del gruppo di Grassi, la Filodoro, il materiale del magazzino spedizioni della OMS di Faenza. Filodoro? No, filo nero. Un sottile, lungo filo nero. Eppure alla OMS la qualità è elevatissima. Il prodotto della OMS è riconosciuto da tutti come il prodotto migliore nel commercio mondiale. No, te l'ho detto. Un lungo, sottile filo nero. Questo lega i destini delle due aziende. Il sindacato, da parte della CGIL, mette in allarme le lavoratrici. La CISL, invece, rassicura. State tranquille, dice. State tranquille. Ma si arriva alla fine del 2009. È Natale. L'azienda comunica che si passerà alla cassa integrazione speciale. Regalo di Natale. Il 9 gennaio la risposta delle lavoratrici è una grande manifestazione. La lotta viene organizzata con il passaparola. L'11 gennaio 2010 arrivano i camion per portare via materiale e macchinari. Le lavoratrici si organizzano e organizzano un presidio sul cancello della fabbrica. La manovra dell'azienda viene rispedita al mittente. I camion ritornano indietro vuoti. Il presidio è successo. Il sindacato e le lavoratrici e i lavoratori hanno vinto, per ora. Ma è chiaro che la premeditazione dell'azienda è un calcolo tragico. L'azienda OMSA di Faenza deve essere chiusa a tutti i costi. Il filo nero, ricordi? Un filo nero che non si ferma a Mantova, ma di questo ti dirò dopo. Operai e sindacati organizzano per il 16 gennaio una manifestazione a Faenza. Partecipano onorevoli, parlamentari, sindaci, rappresentanti di province e regione. Una delegazione dell'OMSA ottiene un incontro con il Ministero a Roma per febbraio. Forse siamo a una svolta, forse l'hanno capito anche a Roma, che l'OMSA è una risorsa nazionale, è un prodotto italiano, tutto italiano. Forse l'hanno capito. Invece non hanno capito un cazzo. Piano asseverato. Un'altra bella parola. Questa fa ancora più sensazione dell'altra. Questa è una bella parola. Sembra quasi che ti stiano per dare un piatto servito. Stia tranquillo, sembra che ti dicano. Piano asseverato. Chiaro, la mia è una domanda. Non sarà che le banche danno liquidità in caso di emergenza aziendale, in cambio chiedono licenziamenti dei lavoratori? Non sarà che il padrone, altra bella parola, ha trovato l'occasione per guadagnare ancora di più? Come? Dirai tu. Memoria. Serve memoria. Senza memoria non si va da nessuna parte. C'è un'altra parola che ti voglio dire. Dumping sociale. Mai sentito parlare? Questa parola fece la comparsa all'inizio degli anni Ottanta, quando un'azienda del nord della Francia decise di trasferire l'intera produzione in Gran Bretagna. Governo Thatcher. È una Gran Bretagna che nessuno ricorda più. La guerra contro l'Argentina per il dominio delle isole Falkland, le leggi liberiste che fanno raddoppiare la disoccupazione e tagliare i salari, lo sciopero della fame e la morte del leader dell'IRA Bobby Sands. E allora l'azienda francese decise di produrre in casa della Thatcher. Costi di produzione eliminati. Diritti dei lavoratori eliminati. Quella fu la prima volta di quella che oggi chiamiamo delocalizzazione. Nessuno anche allora dichiarò emergenza. Tutti con la testa nel buio. Nascondere e evitare di parlare di questo fu un tutt'uno. Sono passati molti anni. È vero, siamo cresciuti, ma la strada era già spianata e noi eravamo in mezzo. Noi eravamo come fini sulla strada per la Puglia. Il 25 febbraio, durante l'incontro tra delegazione OMS e governo e regione, viene comunicato che l'OMS chiude. Non ci sono soluzioni. Ma come non ci sono soluzioni? Dov'è il tuo federalismo del cazzo? Unica soluzione prospettata la cassa integrazione speciale per altri 2 anni. Grazie a Roma. Grazie a tutti. Grazie del vostro federalismo. Grazie della vostra merda. Grazie della fine di questa azienda. Della sua fine. Qui, in Italia, perché grazie al tuo federalismo, Grassi se ne va. Federalismo del cazzo il tuo. Cosa resta da fare allora? Sembrava che qualcosa cambiasse nell'unità delle lavoratrici e dei lavoratori della OMSA. Che l'unità fosse una costante ormai conquistata. Ma le cose non stanno così come le sogniamo noi. Perché questo è un sogno. Tutto questo è un grande sogno collettivo che sta finendo male. Adesso bisogna decidere se continuare la lotta o se accettare l'accordo per la chiusura. Le lavoratrici non ci stanno, ma la CISL preme per la firma. Comincia a fare pressioni sulle dipendenti e manda SMS sul cellulare delle lavoratrici per indurre ad accettare l'accordo. Ma quale accordo vai parlando? Qui il lavoro c'è, qui si lavora, si produce. Le commesse di lavoro ci sono. Perché dobbiamo accettare la cassa integrazione speciale per 2 anni e poi chiudere quando il lavoro c'è? Te l'ho detto prima, il filo nero. Fascisti di ieri, fascisti di oggi. viene indetta un'assemblea nella quale si dovrà decidere cosa fare, ma qualcosa non va come deve andare. Questa non è un'assemblea come le altre. Partecipano persone che non fanno parte della OMSA, sono i mariti di una parte delle lavoratrici che vogliono firmare l'accordo tra governo e azienda. Hanno paura di essere in minoranza e hanno chiamato mariti e amici. Una manovra di qualcuno che sta complottando, il filo nero. Te l'ho detto. Ma adesso bisogna fare in fretta. Non c'è tempo da perdere. Viene indetta una nuova assemblea con le firme delle sole lavoratrici e lavoratori dell'OMSA. Questa volta non passeranno gli estranei, il filo nero. La CIS ripete la manovra degli SMS e cellulari dei dipendenti, ma questa volta la strategia della CIS non passa. La votazione avviene per scrutinio segreto, si scatena il finimondo. E adesso siamo qui, con il braccio armato del capitalismo, che ci chiede il conto. Non state in mezzo alla strada, sembra ci voglia dire. State ostruendo il traffico, state ostruendo il mercato, banche, piano asseverato, ristrutturazione, dumping sociale, delocalizzazione, licenziamento. Com'è possibile tutto questo? I casi sono due: o ci facciamo impallinare stando fermi con le spalle al muro, o al muro ci mettiamo qualcun altro, che non siano i lavoratori. Serve però memoria. Memoria, te l'ho già detto un'altra volta, senza memoria non farai mai niente, non andrai mai da nessuna parte. Memoria. Va bene. 1995, l'amministrazione comunale di Zola Predosa vende un grande appezzamento di terreno alla famiglia Fini. Un grande appezzamento di terreno a prezzo agevolato, te lo ripeto, a prezzo agevolato. E in cambio ottiene che la produzione del prodotto dovrà restare in questo comune. Memoria. Gli uomini d'onore mantengono i patti. Sai cosa mi diceva durante il servizio militare un compagno di Napoli? Esistono tre tipi di uomini al mondo. Homme, mezz'homme e homme merda. Sotto la direzione di Marco Fini, che aveva sottoscritto il patto con l'amministrazione comunale di Zola, la Fini Compressore apre un'azienda in Cina, homme, mezz'homme, Cina. E il prezzo agevolato? Spiacenti, se n'è andato in Cina pure quello, dumping sociale, per il portafoglio, per il comune di Zola, per i cittadini di Zola, per i contribuenti. Mi piace questo capitalismo fatto con i soldi del pubblico. Beh, in Italia è così che funziona, soldi pubblici, capitali privati. E quando non basta nemmeno questo, soldi pubblici e capitali all'estero, con i soldi di casa nostra, ovviamente. Mio padre se lo diceva sempre, abbiamo sbagliato tutto, noi lavoratori non abbiamo mai capito niente. E già, mi sa che aveva ragione, l'homme merda fa il capitalismo e le leggi... E i governi? E i sindacati? E i partiti? Dove cavolo sono tutte queste gente? Per non parlare poi della Chiesa. Pensa se scoprissimo che nel mercato c'è dentro anche la Chiesa. La crocifissione dei lavoratori sarebbe completa. Memoria. Hai un bel da parlare di memoria, mi dirai. Qui smantellano tutto e tu mi parli di memoria. Eh sì, io ti parlo di memoria perché se non ricordo male... La memoria sono anche gli accordi sottoscritti. E allora voglio sapere dove sono le persone che hanno fatto questi accordi. Voglio dire, chi doveva controllare che la produzione doveva restare qui? Chi doveva controllare che gli accordi venissero rispettati? Dove erano tutti costoro? Possibile che nessuno si sia mai accorto dell'inganno? Voglio la moviola, voglio le registrazioni del filmato. Come dici? Non hai la moviola? Non hai il filmato? Allora rivoglio indietro il mio campo da calcio. Rivoglio indietro il mio passato remoto. Rivoglio indietro il mio futuro. Che se ne vada in Cina, ma con i suoi di soldi. Fanculo gli accordi. Se vogliono la guerra dobbiamo essere pronti anche noi. Non possiamo sempre prenderci le cannonate. Vogliono il capitalismo? Bene, a loro il capitalismo, a noi i capitali. Passano alcuni giorni. Durante la distribuzione del modulo CUD alle dipendenti, l'azienda ritenta di condizionare le scelte libere delle dipendenti. Le lavoratrici vengono avvicinate singolarmente e insieme alla consegna del modulo CUD viene consegnato un volantino nel quale si minaccia la chiusura se non verrà accettato l'accordo con il governo. I movimenti sospetti portano a scoprire la nuova manovra dell'azienda. La CGIL denuncia immediatamente la dirigenza OMSA per attività antisindacale, ma quando tutto sembra essere chiaro a tutti, un nuovo fronte si apre tra lo sconcerto delle dipendenti dell'OMSA. Il filo nero diventa sempre più attorcigliato. La votazione segreta di pochi giorni prima, che non ebbe svolgimento per una quasi rissa, viene ripetuta il 4 marzo 2010. Ricordati questa data. Perché quel giorno anche la CGIL si divide, per la prima volta, nella vertenza OMSA. Cos'è successo? Non eravamo rimasti uniti fino a quel momento? Perché alcuni dirigenti della CGIL si rimangiano il mandato del 25 febbraio 2010, di poche settimane prima, nel quale avevano dichiarato che non bisognava accettare l'accordo con il governo? Cos'è successo in questo lasso di tempo, in questo sputo di tempo? In questo sputo di volta faccia, io sputo veleno di altri, che altri mi hanno avvelenato, voto avvelenato, non possiamo fare altro che accettare questa votazione segreta. Ma i segreti forse sono altri che non conosciamo, i segreti di questo sputo di tempo. La votazione vede 228 favorevoli e 98 contrari. È la fine, compagne. Sputo lacrime. Di sconfitta, non mi chiedere altro, non mi chiedere altro. Giorni dopo viene siglato un nuovo accordo in sede della provincia. L'accordo prevede di portare via le macchine e l'OMSA chiude, compagne. Io non sputo più, sputo di vita, dentro questa fabbrica. Ognuno di noi ha sputato fatica e adesso tocca a loro sputare sulle nostre vite. Il 13 maggio, dopo giorni di armistizio tra sindacati, aziende e lavoratrici, in un incontro al Ministero viene previsto un piano di riconversione dell'OMSA. Tutto ritorna in gioco. La CGIL ricompatta ciò che può e nell'accordo con il Ministero viene tolta la dicitura dello smantellamento delle macchine di produzione calze. Ma il 17 maggio, quattro giorni dopo, cominciano a smontare le macchine dell'OMSA. viene indetto immediatamente uno sciopero per il giorno successivo, il 18 maggio. Viene proclamato lo stato permanente di agitazione delle maestranze. Il 19 maggio vengono bloccati i facchini di un'azienda esterna, incaricata di caricare le macchine sui camion. Viene immediatamente rimontato il presidio sui cancelli dell'OMSA. Il 20 maggio l'azienda fa uscire un comunicato. Per colpa di persone che non rispettano gli accordi, verranno eliminate dagli accordi stessi tutte le parti economiche previste. Nello stesso giorno, il 20 maggio, la CISL indice un'assemblea e chiede a gran voce lo smantellamento del presidio delle lavoratrici in protesta e invia ancora una volta messaggi anche attraverso SMS. Non soddisfatta, la CISL chiama la Digos davanti ai cancelli e al presidio dell'OMSA. Gli stessi dirigenti CISL sono con la Digos, i camion sono lì. Tutto è pronto per essere smantellato definitivamente. La tensione è altissima. La sera del 20 maggio le donne dell'OMSA sono ancora sul presidio dei cancelli e davanti a loro si stanno radunando decine di persone raccolte dai messaggi della CISL. Volano parole grosse. Il primo camion è sul cancello, pronto per uscire. Il presidio sta per essere cerchiato. All'improvviso, però, esce dall'azienda un dirigente dell'OMSA. Sta telefonando mentre cammina verso il presidio. Io perdo il lavoro e tu mi parli di riformismo, di riforme, mi parli di concertazione, mi parli di trattative. Mi parli. Ma di cosa cazzo parli? Io perdo il lavoro, non hai capito? Mi portano via la terra, la mia terra. Poi mi portano via l'esistenza, la possibilità di vivere dignitosamente. Mi portano via la possibilità di farmi una famiglia. Mi portano via tutto e mi parli di federalismo. Vai a fanculo tu e il tuo federalismo del cazzo. Lo vuoi davvero il federalismo? E allora te lo propongo io, ma ti propongo il mio di federalismo. Vuole andarsene in Cina? Bene, che ci vada. Ma prima restituisca a noi tutti i soldi di cui ha beneficiato. Restituisca il terreno e tutto il plusvalore che gli abbiamo dato. Come dici? Che non è d'accordo con le nostre proposte? Che vuole fare quello che vuole? E allora ti faccio un'altra proposta. Sei ministro dell'interno? Sei anche ministro dell'industria? E allora a questo signore che vuole andarsene in Cina, tu gli blocchi il passaporto, gli blocchi i beni, da qui non se ne va se prima non ha restituito tutto. Come dici? Che questo tipo di federalismo non ti piace? Allora dillo, sei un uomo merda pure tu, dillo che fai parte anche tu di questo piano, piano asseverato, il piatto servito, mon ami. E no, stavolta non passa, stavolta non la passerai. La lotta si fa dura. Il 13 aprile del 2010 l'azienda Fini comunica tramite lettera a 80 lavoratori che saranno licenziati. Il plotone di esecuzione è davanti a noi. Homme merda per un mondo di merda. La reazione dei lavoratori però arriva con grande coraggio. Viene fatto subito un presidio davanti ai cancelli dell'azienda. I lavoratori non cedono di un passo. Restano giorno e notte lì, in quello che un tempo era un campo da calcio. Dopo 30 anni, ragazzi, qui si gioca ancora. Ma la partita stavolta è più grande di noi. Il sindaco di Zola sostiene i lavoratori in lotta. L'amministrazione comunale dà un aiuto logistico e in poco tempo viene allestita una grande tenda. Dentro ci si mangia, si dorme, si lotta. Dalla Cina, con furore, arriva Marco Fini. Il tavolo di trattativa è stato richiesto dopo giorni di sciopero, da sindacati e ora anche da un'industria, oltre che da rappresentanti di provincia e regione. Il resto lo sai. I giornali mentono spudoratamente, qualcuno addirittura a titolo, niente licenziamenti. Un altro quotidiano in prima pagina osa addirittura. La Fini ritira i 108 licenziamenti. Potrei dirti ancora di queste menzogne. Ma ormai tutto è una grossa menzogna. La mia vita, il mio futuro è una grande menzogna. I giornali mentono, sapendo di mentire, noi verremmo licenziati. L'unica differenza è che non verremo licenziati domani, ma fra qualche mese, ma verremo licenziati. Un dirigente della CGIL, presente al presidio, si avvicina al direttore dell'OMSA. La Digos è allerta. Una parola. Mediazione. Il dirigente della CGIL e il dirigente dell'OMSA stanno mediando per evitare lo scontro finale. Il dirigente dell'OMSA sta ancora parlando al cellulare con un altro dirigente della Golden Lady, di Mantova. Chi ci sia veramente dall'altra parte del telefono non lo sa nessuno, ma qualcosa si muove. Il dirigente dell'OMSA riattacca il telefonino. Parla con il dirigente della CGIL. Tutte le persone sono lì, ferme, immobili, ad attendere una mossa di qualcuno. I due parlano. Poi il dirigente dell'OMSA rientra. Il dirigente della CGIL va verso il presidio. Il camion rientra e i macchinari, almeno per oggi, non verranno caricati né mandati via. Lo scontro viene evitato per un soffio. Tutto è rinviato all'incontro in regione il 25 maggio. 5 giorni, ricordi? Fascisti di ieri, fascisti di oggi. C'è un filo nero che li accomuna. Nell'incontro in regione del 25 maggio, l'azienda comunica la chiusura in luglio 2010. Restano pochi mesi di vita per questa azienda. Un suicidio o un omicidio? La CIS si dichiara d'accordo, la CGIL è contraria. Tutto viene rinviato al Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. Il resto è storia di questi giorni, storia di oggi, storia di fascismi. Ma la storia è anche ricordo, e io ricordo. Io ricordo quando nel 2000 il viceministro Urso dichiarava importante il fatto che l'OMSA avesse aperto uno stabilimento in Serbia a Valevo. Proprio così, importante. Dichiarava che era importante, perché tutta la filiera restava in Italia. L'indotto restava in Italia. Grazie, viceministro Urso. Grazie, oggi sei ministro. Ma dimmi una cosa, caro ex vice oggi ministro. Ma di che cazzo di importante stai parlando? Di che cazzo di federalismo stai parlando? Di che cazzo di filiera stai parlando? Stai delirando, ex vice oggi ministro del cazzo. Tutto l'indotto qui in Romagna ha chiuso in questi 10 anni. Eccolo il tuo accordo. Tutti gli stabilimenti hanno chiuso, Faenza, Brisighella, Castel Bolognese e altri ancora. Grazie del tuo federalismo. Oggi sto aspettando la mia morte di una fabbrica, sto aspettando il mio cambio d'uso, così forse come cambierà destinazione d'uso il vecchio stabilimento OMSA. Il cerchio si chiude, così come si chiude una fabbrica. Siamo alla fine del 2010. O forse siamo alla fine e basta. È il 7 dicembre 2010. La direzione della Fini invia una lettera ai dipendenti e al sindacato. Per continuare la cassa integrazione in deroga, chiede il licenziamento di 26 lavoratori per dare la possibilità agli altri di continuare la cassa. Ricordi? Quanti ti hanno mentito finora e tu ascoltavi? Lo avevamo denunciato il 7 ottobre scorso. L'accordo firmato dai sindacati è un disastro annunciato. Dopo aver concesso all'azienda tutto quello che aveva chiesto con la prima cassa integrazione in deroga, ora con il nuovo accordo ne licenziano altri 26. Non solo. Non essendo prevista l'integrazione all'assegno INPS, non essendo prevista nessuna anticipazione dell'azienda, ora ci vengono a spiegare che se i lavoratori vogliono i propri soldi devono firmare una cambiale con gli istituti di credito, con le quali le banche concederanno un plafond per anticipare ai dipendenti fini compressori 7.000 euro a testa, a rate di 700. Quando arriveranno gli assegni dell'INPS, verranno incassati dalle banche. Ancora le banche, ancora debiti. Ma come? Perdo il posto o lo perderò e devo accendere mutui? Cara mamma, perché sono nato? In che mondo mi hai messo? Non era questo il posto che sognavo. Ho lavorato una vita. E adesso finirò come una luminaria alla fine del Natale. Natale. A Natale si fanno i regali. E noi, sotto la sede degli industriali di Bologna, davanti alla sede di un'industria, Abbiamo scaricato chili di cuore, fegato e polmoni di animali per soddisfare la fame dei padroni, come facevano gli aztechi per ringraziarsi gli dèi nei loro sacrifici umani. Memoria. Memoria. Ricordi quando ti parlavo di piano severato? Esiste un altro piano che tutti conoscono, ma che nessuno avrà mai il coraggio di raccontarti, forse perché non fa parte di questo paese, forse perché sto vivendo in un incubo. Sto sognando che un padrone, diventato padrone con i soldi che non erano suoi, ha fatto una grande ricchezza. Poi ho sognato che questo padrone, non contento, si portava via questa ricchezza, che non era sua, e la portava lontano. E ho sognato che c'erano banche che erano d'accordo con lui, e che c'era un altro padrone che faceva compressori in giro per il mondo. Sì, faceva compressori anche lui, come la mia fabbrica, e che girava dentro la mia fabbrica, ci guardava in silenzio, si fermava davanti a noi e scriveva. Sì, scriveva il nostro nome, poi ritornava a camminare lento dentro la mia fabbrica, e che le banche erano di altri padroni come lui, e che avevano anche dei giornali e delle televisioni, e che erano padroni di tutto, anche delle verità che ti raccontano. Poi mi sono svegliato, sono andato alla fabbrica, come tutte le mattine faccio da tanti anni, e quando sono arrivato quella mattina, la mia fabbrica, perché quella era la mia fabbrica, l'ho trovata che non respirava più, era morta. Io adesso non so cosa farò, ma di certo so che questa storia la racconterò finché avrò respiro. Questo è Morte accidentale di una fabbrica, di e con Giuliano Bugani, al pianoforte Gianluca Nuti. Con Riccardo Locatelli di We For Show per parlarci del progetto Life for Life. Riccardo, ben trovato. Grazie, grazie, ben trovati a tutti, grazie mille. Ci racconti? Vi racconto come è nata questa idea. È nata con la mia socia, con We For Show, con le persone che lavorano con noi durante il periodo del lockdown. La pandemia, diciamo, ci ha preso in pieno, eravamo in tour, noi siamo anche manager dei Dire Straits Legacy, eravamo in tour negli USA a marzo, poi avremmo dovuto fare Brasile e Russia e siamo stati catapultati di corsa a rientrare nelle nostre case, perdendo, bloccando e posticipando tutto quanto il tour, perciò abbiamo vissuto quel mese e mezzo veramente di confusione, perché dall'altra parte del mondo le cose non erano ancora arrivate così pesanti come da noi. Ci siamo ritrovati in una situazione di paura, spavento e veramente un attimino persi, pertanto è stato il primo mese e mezzo veramente difficile. Dopodiché sono iniziate a nascere alcune idee, no? Alcune opportunità, alcune possibilità di ripresa, sono sempre state da subito negative per il nostro settore, nel senso che si parlava subito di rinviare tutto a metà del 2021. Questo ha una logica per le grandi produzioni, per le grandissime produzioni, da uno stadio a produzioni enormi come quelle dei grandissimi artisti internazionali. Però è stato corretto, secondo noi, mettere tutto insieme, no? Perché le produzioni possono essere anche diverse, poi soprattutto noi italiani abbiamo la fantasia, abbiamo l'arte, abbiamo tantissimi valori che abbiamo tirato fuori in questo momento del lockdown, abbiamo fatto diventare i nostri balconi un'esperienza di vita, io per primo è diventato il mio andar fuori e andare in balcone, e pertanto abbiamo cominciato con la mia socia Fabiana e con Gloria a parlare di queste idee, ci siamo confrontati con i nostri tecnici di riferimento come Antonio De Grandis, con il nostro ufficio stampa, con la Rocchina, su quest'idea, cioè sul fatto di, la verità qual è? Che noi non possiamo organizzare gli eventi come facevamo un tempo, però gli artisti la voglia ce l'hanno, noi la possibilità l'abbiamo, e se fossimo noi a portare la nostra arte, l'arte di tutti, perché poi questo progetto nasce da We For Show, ma sarà aperto a tutti gli artisti e a tutti i comuni italiani. Chiunque voglia partecipare, se per un momento riusciamo a mettere da parte colori, bandiere, management e cose varie, ci mettiamo a disposizione veramente del pubblico che sta soffrendo e possiamo anche noi in qualche modo dare una mano, ridimensionando tutto e cercando di fare tutto il più semplice possibile, potremmo riportare qualcuno sui palchi in forma ridotta e portare un po' di serenità alla gente. Perciò abbiamo cominciato a mettere su carta questo progetto. Abbiamo contattato questo nostro partner che ha questo fantastico track, l'idea gli è piaciuta subito, abbiamo visto che la cosa era fattibile, abbiamo fatto dei test con i nostri artisti e sono tutti stracontenti di ripartire, anche se per una briciola, ma per dare la possibilità appunto al mondo di dare un segnale positivo sia a livello nazionale che internazionale, perché poi noi italiani abbiamo la capacità di farci conoscere anche nel senso positivo in tutto il mondo. Ne abbiamo parlato con qualche comune, a cui siamo ovviamente più legati, più vicini, ed è piaciuta tantissimo, perché questo spettacolo, questa iniziativa la puoi andare a fare ovunque e volendo anche in qualsiasi condizione, dal completo lockdown, te la porto veramente sotto casa, al tuo balcone di casa, che diventa il palco più bello d'Italia, no? Cioè l'Italia diventa un palco e i balconi diventano i nostri skybox personali. Ha la possibilità, se il decreto ce ne darà l'opportunità, se le cose andranno bene, come meglio, come si spera, di poter radunare un po' di persone, sono 5, 10, 100, 1000 con i distanziamenti, con tutti i criteri di sicurezza, e girare per tutta l'Italia, coinvolgendo artisti locali. Faccio un esempio stupido: arriva una richiesta, lo valutiamo, o vogliamo fare un'operazione appunto su Roma, come stanno nascendo tanti contatti, perché non approfittare di tutti gli artisti che sono su Roma, limitare l'impatto, dare l'opportunità a loro, vecchio stile, di montare su una macchina, venire nel posto dove ci fermeremo, che avremo stabilito insieme al comune, sempre in ottica della massima sicurezza. Ci si esibisce, vecchio stile, ci si porta degli strumenti a mano piuttosto che il proprio copione, e dopodiché, una volta finito, si prende la macchina, si torna a casa in totale sicurezza, abbattendo tutto il più possibile tutti i costi. Ripeto, non stiamo parlando di fare pur, stiamo parlando di ricominciare a fare un po' di casino, come giustamente è il nostro compito, e di portare un po' di sorriso in giro. Questo grosso modo è il progetto, ecco, da cui nasce Life for Life. A questo punto ci lasci tutti i riferimenti? Il sito ancora in costruzione, sarà liveforlife.it, liveforlife, però i riferimenti possono essere quelli di WeForShow, weforshow.com, che è il classico W4 con il numero show come spettacolo.com, lì ci sono già alcune notizie, tutti i nostri canali social sono collegati ovviamente al nostro sito internet, e la nostra intenzione è anche cominciare ad annunciare quali sono tutti gli artisti che hanno già aderito, che sono veramente, veramente tanti, e non solo quelli del nostro roster. Pertanto la cosa cresce, siamo tutti in attesa di capire il DPCM prossimo che tipo di opportunità ci darà, perché ribadisco, questo spettacolo, questo evento, questa iniziativa può essere fatta ovunque, però ci vuole che siamo tutti d'accordo, tranquilli, e che vogliamo veramente dare un po' di possibilità alla cultura di rinascere. Ti faccio un esempio che tengo particolarmente. Anche i tecnici, non porteremo i nostri tecnici dappertutto, prenderemo tecnici localmente, tutte le persone del settore, magari sarà un'unità, due unità, quello che sarà necessario, in massima sicurezza, però ripeto, piuttosto che stare a casa e aspettare che qualcosa accada, preferiremmo sudare, andare in giro e guadagnarci la pagnotta, magari con 4-5 eventi per fare quello che una volta guadagnavamo in un giorno, e questa è l'iniziativa, questa è la volontà. Vorremmo anche con questa serie di iniziative ringraziare anche coloro che fino ad oggi si sono presi cura di noi, perciò medici, infermieri, forze dell'ordine, è una cosa veramente, ci teniamo molto, insomma. Life for Life, un saluto e un ringraziamento a Riccardo Locatelli di We4Show, un abbraccio in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie mille, grazie a voi dello tempo e dello spazio, e magari ci vediamo sotto casa, ci topponiamo, magari arriviamo con un track. Con l'artista Graziana Maniscalco per parlare del progetto Vocifero Podcast. Graziana, ben trovata. Ben trovata a te e a tutti voi. Ci racconti di questa idea? Sì, un po' di tempo che sia io che Nino Romeo desideravamo lavorare ad un progetto di audioletture, quindi, come dire, una forma di radio che riguardasse proprio il nostro lavoro, in cui mettere, insomma, ecco, a servizio le nostre competenze. Insomma, noi siamo attori, registi per le nostre compagnie, diciamo che è un po' di tempo quindi che intendevamo portare avanti questa cosa. E chiaramente la situazione particolare che stiamo vivendo tutti noi artisti, come dire, ha affrettato le cose, e quindi abbiamo poi deciso di affrettare il passo e di pubblicare proprio un podcast, così come si fa adesso, che è una forma, come dire, molto più semplice di comunicazione, di pubblicazione, che consente anche una certa diffusione. E quale sarà la piattaforma e come è costituito il lavoro? È la piattaforma Spreaker, e attualmente noi quindi siamo su Spreaker come appunto Lucifero Audio Racconti. Noi abbiamo intenzione di sviluppare il progetto in questa maniera. Attualmente abbiamo pubblicato due tracce, due puntate, chiamiamole così, in questa sezione di Lucifero Audio Racconti, ma vogliamo realizzare altri due podcast che si chiameranno sempre Lucifero. Uno che è più relativo proprio alle audionarrazioni destinate ai ragazzi e ai più piccoli sostanzialmente, perché anche questa è una delle linee delle nostre compagnie, cioè la produzione di spettacoli anche di teatro ragazzi. E poi una più specificamente dedicata proprio al dramma e alla drammaturgia. Attualmente noi abbiamo collegato, poiché lo facciamo da moltissimi anni, devo dire, tantissime realtà, biblioteche civiche, moltissime appunto della nostra Sicilia, con cui abbiamo avuto ampie collaborazioni, e quindi diciamo che in qualche modo abbiamo anche un canale di utenza che riguarda proprio le biblioteche. Prevedete la collaborazione con altri artisti? Certamente, noi abbiamo cominciato un po' da soli, anche perché ci sono degli oggettivi problemi di sicurezza nei posti di lavoro e tutta una serie di questioni che in questo momento non rendono facile, insomma, la presenza di altri, ma abbiamo già delle collaborazioni, insomma, con altri artisti, con altri attori che lavorano, che hanno lavorato anche con noi nella nostra compagnia, e per realizzare delle altre puntate specifiche, quindi ci auguriamo, insomma, di ampliare, e soprattutto quando la mobilità anche ce lo consentirà più facilmente, di far venire, insomma, in sede nel nostro studio di registrazione gli attori, le persone, insomma, che vogliono collaborare professionalmente alla nostra iniziativa. Al momento qual è la cadenza? La cadenza ogni 15 giorni. Noi abbiamo pubblicato due puntate. Una è La doccia di Vitaliano Brancati, che è una bellissima novella che abbiamo pubblicato per il 25 aprile, e abbiamo pubblicato un racconto che è tratto da Donne che corrono coi lupi, che insomma è un famosissimo libro che naturalmente ha appassionato tutte le donne, e che è La donna scheletro. E queste sono, diciamo, le prime tracce pubblicate proprio nella sezione audio racconti. Prossimi appuntamenti, quindi, tra 15 giorni sarà una relazione all'Accademia di Franz Kafka, che interpreterà Nino Romeo, e sarà questa nella sezione podcast audiodrama. E poi un'altra cosa che sarà dedicata, insomma, al pubblico dei più piccoli, I musicanti di Brema dai fratelli Grimm, sarà interpretata da due attori che sono Salvo Valentino e Pietro Cuccia. Quindi, diciamo, sono le prossime pubblicazioni che ci abbiamo a fare, che stiamo già lavorando e stiamo preparando. I podcast di che durata sono? Ci stiamo regolando soprattutto sulla sezione audio racconti e poi nella sezione audio narrazioni per ragazzi, con durate abbastanza corte, comprese tra i 7 e i 15-20 minuti, non più. Naturalmente dipende sempre dal materiale narrativo che si sceglie, e ogni cosa è un progetto a sé, è ovvio, però credo che sia la durata migliore, e naturalmente va vista in base al target di riferimento. Ecco, è chiaro che sulla sezione di cui parlavo, cioè quella di Lucifero audiodrama, sicuramente sarà una durata più lunga. La stessa relazione all'Accademia di cui parlavo prima, già in lettura è una novella, un racconto più lungo, più esteso, naturalmente molto complesso, e quindi sicuramente avrà una durata maggiore. Quindi, diciamo così, ci regoliamo in base al target e sicuramente in base al progetto che abbiamo a cuore in un determinato momento. Tra l'altro le cose più lunghe si possono sempre dividere in più puntate. Certamente, certamente, esatto, sì, certamente. Poi il podcast è una bella opportunità perché essendo una cosa che si scarica e non occupa memoria nel telefono, si può ascoltare ovunque, dal PC, dal telefono, in qualunque momento, anche facendo ginnastica o insomma seduti sul divano, rilassandosi un poco, ecco. Trovo che sia una forma di comunicazione bellissima, a me piace molto, per esempio, l'audiolibro, i podcast in generale, perché ne esistono tanti in tante materie e di tanti argomenti. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti web? Siamo sulla piattaforma Spreaker.com, la sezione in cui ci siamo iscritti è show e la sezione aperta vocifero-audio-racconti. Comunque sulla nostra pagina Facebook abbiamo aperto una pagina di vocifero audio racconti, oltre che la mia pagina, il mio profilo personale di Graziana Maniscalco, e potete trovare tutti i riferimenti e contattarci, perché naturalmente questa piattaforma è libera e quindi basta soltanto collegarsi a Spreaker e a vocifero audio racconti, ecco, per poter insomma usufruire di questo ascolto. Il progetto vocifero, un saluto e un ringraziamento a Graziana Maniscalco, un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie a voi, a presto allora, grazie. Con la performer Giulietta De Bernardi per parlare del progetto Hamlet Private. Giulietta, ben trovata. Ciao, ciao. Ce ne parli? Sì, allora, Hamlet Private nasce come un Amleto al femminile, che è diventato un incontro tra il performer e lo spettatore, uno spettacolo performance uno a uno. Nasce ideato da Martina Martis, regista franco-tedesca che vive in Finlandia, e portato in Italia da Canfiago Residenze, in particolare Michele Losi, il direttore artistico, diciamo è stato il tramite, e noi performer di Scarlattine Teatro l'abbiamo messo in scena dove? Normalmente nei caffè, nei festival, ma in luoghi diciamo non in sale teatrali, l'incontro appunto è uno a uno. E adesso, da fine aprile, noi lo facciamo online con Zoom, incontrando lo spettatore, e diciamo che lo spettatore incontra 22 carte ispirate alla storia di Amleto, che hanno come elemento comune il dubbio, la capacità di mettere in discussione ciò che è dato, che in fondo è quello che ci rende esseri umani, che ci distingue dagli altri esseri viventi. Diciamo che anche online accade il teatro, perché è un atto unico, perché ogni incontro è unico di per sé, è speciale, e da ogni incontro nasce un nuovo accadimento, quindi poi sono, diciamo che non è teatro filmato, ma lo spettatore assiste, sceglie queste immagini che sono le carte che raccontano appunto la storia di Amleto, che però diventano poi in un secondo tempo, sono le carte diciamo a scegliere lo spettatore, quindi in qualche modo allo spettatore vengono fatti i tarocchi teatrali, e a seconda delle carte che arrivano viene narrata la storia citata, la storia di Amleto, che in fondo siamo tutti noi. Amleto è l'essere umano per eccellenza, e i suoi dubbi diventano e sono i dubbi dell'essere umano. Poi mai come questo momento forse il dubbio è la parola chiave che ci accomuna tutti quanti, la carta numero zero che apre il cerchio delle carte. E quindi è un viaggio tra la scelta e le immagini, le parole. Dal 19 al 24 saremo a Amat, in questo circuito multidisciplinare delle Marche, per la rassegna Oh Everywhere, e dove incontreremo nuovamente altri esseri, altri singoli umani. Cosa ti piaceva di quest'idea? Sinceramente subito l'idea che non ci fosse palcoscenico e tutta una serie di cose mi straniva. Poi in realtà è stato bellissimo crearlo, perché diciamo che ci accomunano delle parole chiave che attraversano Amleto, però tutte le immagini, ogni attore, ogni performer ha il proprio mazzo di carte, quindi ogni scena associata a una... Sì, è come fosse, come se avessimo girato un film diviso per fotogrammi, quindi mi è piaciuto molto anche proprio crearlo. E poi l'incontro con l'essere umano, per me è meraviglioso incontrare le persone in un'intimità così forte, perché ci toglie ogni ruolo, ogni categoria, ogni... è proprio un incontro con sé. In più online, a me piace il cinema, arrivo anche dal cinema, mi piace il cinema, quindi l'immagine è un lavoro sull'immagine forte, e non è un surrogato del teatro, ma è ancora qualcos'altro. E anche lì il fatto di incontrare le persone nella propria casa, in un angolo che scelgono loro, appartato, solitario, tranquillo, è anche un atto unico quello, perché in fondo poi a teatro è vero, sceglie il buio, il rito è collettivo, però questa intimità è quello che lo caratterizza, no? È anche proprio l'incontro unico. Mm-hmm. Ci lasci tutti i riferimenti internet? Se si cerca Amlet viene fuori sicuramente, e se no bisogna anche guardare sul sito di Canzirago, www.canziragoresidenza.it, e guardare sotto Amlet Private. Amlet Private, un saluto e un ringraziamento alla performer Giulietta De Bernardi. Un abbraccio, in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao. Con Claudia Della Seta, autrice dell'adattamento e co-regista della versione audio dello spettacolo La Casa degli Spiriti di Isabella Allende, un capitolo ogni settimana attraverso una piattaforma di videoconferenza, poi messo a disposizione dalla Biblioteca Civica e dal Teatro delle Donne di Calenzano. Claudia, ben trovata. A voi, ben trovati. Raccontaci di questo progetto. Allora, La Casa degli Spiriti è nata nel 2003 in Israele al Teatro Arabo Ebraico di Jaffa, che era, ed è tuttora insomma, un teatro che promuoveva il dialogo durante le guerre attraverso il teatro. Quindi fu creato in un momento di grande emergenza, cioè noi facevamo le prove sotto le bombe, e durante una guerra, durante la seconda intifada. E quindi, come dire, è abituata la Casa degli Spiriti a momenti di emergenza. La scrivemmo apposta, la diressi con Glenda Sebald, perché rappresentava un po' il nostro mondo latino. Glenda era dall'Uruguay, io sono italiana, vivevamo in Israele, insomma. Quindi è nata così, e così è andata sempre avanti. E ogni tanto si ripresenta, cioè la rifacciamo con lo stesso cast di attori italiani e israeliani, arabi ed ebrei, cioè c'era questa triade, per parlare alla fine vedete, insomma, in realtà quando sei in guerra non lo sai se domani una bomba ti scoppia sotto il sedere, no? Veramente non sai. Come oggi non sappiamo se domani potremmo ammalarci di coronavirus, sono in un momento dell'emergenza, però è una dichiarazione di fede e di speranza nel futuro, La Casa degli Spiriti, come lo scrisse Isabella Allende durante il suo esilio dopo il colpo di Stato in Cile. In momenti di totale confusione noi diciamo io vivo e scelgo la vita piuttosto che la morte, e la morte è tanto, non è solo morire di coronavirus. In questo momento noi attori, la categoria dello spettacolo, siamo invisibili, non esistiamo, no? Siamo spiriti, non esistiamo, non lavoreremo per un anno, ma non si parla di noi, no? E quindi siamo spiriti, siamo ombre, non dobbiamo mangiare, non dobbiamo pagare le bollette, non siamo tutelati, purtroppo no. È una lunga situazione che è scoppiata adesso. E ci sentiamo un po' veramente come delle ombre, cioè, ma noi che ci facciamo in questo mondo? Siamo così inutili? E quindi da lì... una reazione istintiva, non ragionata, la Casa degli Spiriti, le stesse persone si sono ritrovate via Zoom nei tre paesi e hanno detto: regaliamo, perché è un regalo che facciamo al pubblico, in audio, con delle bellissime immagini di Paolo Matteoni, regaliamo questa storia. Riportiamo queste emozioni, vogliamo riuscire dalla fine a dire la frase della protagonista: credo che il mio lavoro sia la vita. È una protagonista femmina, che non vi dico delle altre cose perché sarebbe una sorpresa, insomma, e lei dice: dopo che mi hanno torturata, sono stata messa in carcere, sono stata tenuta in una cuccia, si chiamavano cucce, no? Le carceri in tempi di colpe, e dopo tutto quello che abbiamo passato, tutti morti, io però dico ancora: io credo che il mio mestiere è la vita. Rispetto al testo dell'Allende, su cosa hai voluto puntare nell'adattamento? Il testo dell'Allende è una lettera, veramente lei l'ha scritto così, dal Venezuela lo scrisse, come una lettera a suo nonno. E in questa lunga lettera, per rimanere viva in quel momento, riraccontava a suo nonno la storia della loro famiglia, per capire come sono arrivati a un disastro del genere. Parliamo di desaparecidos, di ragazzi gettati giù dagli aerei, no? Cioè, insomma, era un momento molto doloroso. E allora io, abbiamo enfatizzato, c'è un nonno molto vecchio che è una delle persone che ha causato il golpe, quindi è molto difficile amarlo, ma devo dire che i nostri attori non è possibile, e sua nipote che invece è stata rapita e torturata, che si confrontano da due punti di vista politici molto molto diversi, no? Lei è con i ribelli, lui è uno di quelli che ha causato il golpe, non c'è perdono su quello, eh? Ed è in dialogo fra loro due in una cucina, nella loro cucina di casa, dove si prepara veramente un pasto per il pubblico, eh? Si fa il primo, il secondo, il dolce proprio, si faceva quando ci teatri erano aperti, perché lei dice: io, tu sei vecchio, ma io voglio, devo vivere, e questo voglio scattare il senso di questa storia. A quel punto entrano dai muri tutti i familiari della loro famiglia a collaborare a questo racconto, e proprio sono dentro ai muri e escono fuori, siedono al tavolo di cucina con loro, mangiano, bevono, eccetera, per aiutarli a lutare alta la protagonista a trovare un senso. Come siamo arrivati a questo odio, no? Siamo a un paese dove una parte si è rivoltata contro un'altra. Dice: io non capisco come è potuto succedere, devo capire, perché io devo romperla questa catena di odio. Ecco, questo fu. Lo stesso succedeva durante l'intifada. È una, sì, un'istintiva reazione di dire: caro nonno, facciamo il punto della nostra vita. Questa è stata la differenza, la trovata, diciamo, drammaturgica. Nella cucina, dove trovate la Fra Maria, che è la tenuta di campagna, dove sono avvenute tante violenze anche, nella stessa cucina si ricostruisce il senso della propria storia, mentre si prepara una buona cena per il pubblico. Ecco. Sono 17 gli attori e le attrici impegnati. Sì, è impensabile, infatti. Senza, oggi sarebbe un monologo con tanti pupazzetti, insomma. Invece, ecco, facendolo audio è un tentativo, ovviamente non ho una risposta alla crisi del giorno, insomma. Abbiamo potuto di nuovo offrire le nostre voci plurime, ecco. Sono 17 attori, sono sempre stati. Come riferimenti ci sono chiaramente il sito internet della Biblioteca Civica e del Teatro delle Donne di Calenzano. E poi c'è la pagina La Casa degli Spiriti, che è Terre di Vasi, che la promuove, l'associazione Terre di Vasi, dove verrà pubblicato, quindi c'è la pagina La Casa degli Spiriti Facebook, la Civica di Calenzano, Biblioteca Civica di Calenzano, il Teatro delle Donne, per il momento. Stiamo anche parlando con il Teatro Tor Bella Monaca, in cui collaboriamo. E dove lo spettacolo è andato in scena. La Casa degli Spiriti di Isabella Allende, in versione audio dello spettacolo, un capitolo a settimana attraverso una piattaforma di videoconferenza. Un saluto e un ringraziamento all'autrice dell'adattamento e la coregista Claudia Della Seta. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. E un saluto a voi. Ciao, ciao. con Alessandro Benvenuti del Teatro Tor Bella Monaca per parlare di TIC Online, hashtag incursioni artistiche di mutualità, ovvero sia le iniziative digitali dei teatri in comune. Alessandro, ben trovato. Grazie, ben trovato anche a te. Raccontaci un po' che iniziative sono in programma. Allora, guarda, per maggiori informazioni sarebbe il caso che tu parlassi con il mio co-direttore, direttore organizzativo Filippo D'Alessio. Io mi sono sostanzialmente occupato di una delle due iniziative del Teatro di Tor Bella Monaca, che è aver concesso la possibilità di far diventare accessibili su YouTube alcune pagine di questo diario di un non intubabile che io ho iniziato a scrivere il primo giorno di lockdown e che ho terminato qualche giorno fa dopo 59 giornate di scrittura. Poi adesso in maniera libera e informale continuerò a farlo, però ecco, non più con l'impegno di fare due cartelle a sera. Quindi ecco, io di questo ti posso parlare perché è una cosa che mi riguarda e che oltretutto sta ottenendo anche un certo successo, perché abbiamo in qualche modo utilizzato uno degli attori della nascente compagnia pomposamente detta Stabile, finché non ci cacciano, Bella Monaca, che fa un omaggio praticamente a Woody Allen, imitandolo un po', visto il contenuto umoristico un po' anglosassone dei miei scritti, che poi sono scelti da Filippo D'Alessio e vengono poi editati, recitati, montati ed editati da Andrea Murchio, che è uno dei cinque attori della compagnia di Tor Bella Monaca. Quindi in qualche modo abbiamo messo a frutto la creatività, passami il termine, del direttore artistico, cioè mia, finalizzandola questa cosa che va a inserirsi in questo progetto più ampio che vede i teatri di cintura sotto l'egida del Teatro di Roma farsi attivi in più modi possibili per far passare in questo tempo sospeso senza rimanere appesi anche noi come pedalini che asciugano al sole in attesa che ci facciano riaprire. Quindi ecco, il mio contributo si limita ad aver detto sì, ok, allo sfruttamento di alcune pagine del mio diario, che poi invece io porterò proprio in scena, perché questo diario di un non intubabile fa parte, le scritture che io ho fatto giornalmente fanno parte di uno spettacolo il cui titolo sarà Panico Marrosa e che io stavo già scrivendo prima che scoppiasse questa iattura del coronavirus. Quindi abbiamo, diciamo così, messo a frutto cose nostre di modo da poter in qualche modo essere attivi anche in quest'idea, che è poi l'idea del Teatro di Roma. Ecco, io al di là di questo non è che si possa spiegare poi tante cose, anche perché se ne occupa principalmente Filippo, sta dietro a questa cosa. Io ho anche altre responsabilità come la direzione artistica dei teatri di Siena e altre cose, per cui il mio tempo, diciamo, è un po' diviso fra più cose. E allora partiamo da questo tuo progetto e che, vista poi la pandemia, è cambiato in corso d'opera. Ecco, com'è stata l'arrivo di questa tempesta rispetto al tuo progetto iniziale? Quando si ferma il mondo e poi soltanto metterti lì e cercare di capire che cosa sta succedendo senza farti prendere dal panico. La mia, umanamente parlando, non è una situazione disperata come quella di chi, perdendo lavoro, perde magari anche proprio tanto del futuro. Io ho dei mezzi per resistere al non lavoro, al fatto di non guadagnare più, molto terra terra, qualcosa da parte l'ho messo, non sono ricco, però non sono neanche nella condizione, per fortuna, di disperarmi, per cui ho questa possibilità di guardare le cose con una relativa tranquillità, che comunque in un momento come questo, soprattutto per tenere i nervi a posto e non lasciarsi cadere nella depressione, fa bene, cioè è utile, voglio dire. Quindi io la sto vivendo con il maggior buon senso possibile, cercando appunto di pensare il più positivo possibile, di mettere a frutto questo tempo in cui io non posso lavorare perché devo stare chiuso in casa, o fino all'altro giorno lo sono stato in maniera molto ligia, lo posso sfruttare progettando futuro. Quindi io sto lavorando a un paio di testi teatrali, uno di questi è quello che mi è servito per dare là al diario di un non intubabile, ma anche quello è una cosa che io ho fatto in maniera molto cosciente, nel senso che non potendomi far vedere nei teatri e quindi non potendo non solo lavorare, continuare a lavorare, ma anche a presentare i miei progetti al pubblico, ho pensato che forse in un momento come questo l'idea di farmi conoscere un po' di più come persona poteva essere una cosa giusta, un ringraziamento verso il pubblico che da tantissimi anni mi segue e mi permette di vivere in maniera molto più che decorosa e qui in qualche modo, no? Quindi io che sono un orso e che non rivelo quasi nulla della mia intimità pubblicamente né in nessuna intervista, in questo caso ho detto forse è il momento invece di farmi sentire più vicino alle persone, raccontando anche quelli che erano i miei di problemi, che erano problemi comuni, sebbene i miei non fossero intrisi di disperazione come per chi veramente stenta a sopravvivere senza un lavoro. E devo dire che questa cosa è stata molto apprezzata, perché per molti queste mie due cartelline che scrivevo al giorno erano un modo carino e affettuoso per augurare la buonanotte. Molte persone le leggevano proprio al posto dei romanzi come ultima cosa prima di andare a letto, lo so, perché poi mi arrivavano dei commenti, dei ringraziamenti, mentre altri per esempio se le leggevano la mattina appena svegli. In qualche modo era come dare la buonanotte e il buongiorno a delle persone che con affetto mi seguono da tanti anni come artista, no? Ecco, quindi ho pensato che in un momento così umano e così un senso fragile per l'umanità, disperante anche per l'umanità, questa idea di farsi sentire, di farsi riconoscere un po' di più come persone invece che artisti, poteva essere una cosa apprezzata. E devo dire che lo è stata molto, perché questo diario è stato seguito da tanta gente e l'idea appunto di Filippo di dire ma perché alcune di queste pagine, le più carine, le più divertenti, non possiamo metterle in rete? E io ho detto guarda, sì, oltretutto Andrea Murchio, che è uno dei 5 attori della compagnia, omaggiando in qualche modo Woody Allen con il suo modo di recitare, sincopato, balbettato, con questa voce che un po' somiglia, no, a quella del grande Lionello, che era il doppiatore di Woody Allen in Italia, mi sembrava che fosse un'operazione giusta da fare. Infatti devo dire che sono molto soddisfatto di anticipare in qualche modo quello che sarà il mio prossimo e futuro spettacolo in forma di monologo, ma anche fare un servizio per Torbella Monaca e per questa iniziativa dei teatri di Roma, insomma, in qualche modo. Questa è un po' la storia. Come è fruibile queste parti di diario online? Se uno vuol leggere tutto il diario, io non ho un profilo mio personale Facebook perché non c'ho proprio il tempo, sono è mia figlia Carlotta che peraltro è quella che ha impreziosito molto il diario facendomi delle foto veramente belle, che lei fa grafica e poi fotografa, per cui, e poi è un po' quella che mi cura i social, su Instagram soprattutto e su Facebook, e quindi in qualche modo se uno vuol seguire il diario lo segue su questa pagina, su questo fan club che è mio, che credo che l'indirizzo sia Alessandro Benvenuti Artista, per dire. Ecco, lì c'è proprio, nei giorni ci sono tutte le pagine del diario letto, che è proprio il corpo, cioè tutto quello che io ho scritto, mentre se uno ne vuol sentire alcuni brani, alcuni giorni, che ti ripeto vengono scelti da Filippo D'Alessio, che vengono recitati, filmati ed editati da Andrea Murchio, su YouTube basta mettere sugli spazi social del Teatro di Torbella Monaca e dei teatri di Roma. Insomma, se si trovano basta mettere appunto dal diario di un non intubabile. Ringraziamo Alessandro Benvenuti del Teatro Torbella Monaca che ci ha parlato di questa iniziativa legata alle iniziative digitali dei teatri in comune. Alessandro, un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. Grazie, un saluto a tutti voi. Ciao. Ciao. Con Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili per parlare di TIC Online, hashtag incursioni artistiche di mutualità, ovvero sia le iniziative digitali dei teatri in comune. Veronica, ben trovata. Ciao a tutti, ben trovati anche voi. Ci racconti un po' dell'iniziativa? Sì, ci siamo dovuti organizzare come tutti stanno facendo per poter restare in contatto con il nostro pubblico, il pubblico del Teatro Villa Confidi. Non è possibile fare spettacoli online, che sono la nostra vita, il nostro motivo di esistere, insieme agli spettacoli online ovviamente anche i laboratori, le mostre, insomma tutto quello che prevede un contatto fisico e la voglia di stare insieme, e quindi in questo periodo ovviamente siamo penalizzati, però insomma di necessità di virtù, la voglia di stare a contatto col pubblico c'è sempre e il pubblico ci cerca, e quindi abbiamo ideato un palinsesto, chiamiamolo, online, dove appunto rimanere in contatto con tutti, e che è molto legato alla programmazione che avremmo fatto realmente, che speriamo di poter fare al più presto, quindi con i protagonisti che erano in cartellone e che lo sono stati anche nelle passate edizioni. Noi siamo 7 anni che gestiamo il Teatro Villa Confidi, che fa parte del Teatro in Comune, della rete del Teatro in Comune del Comune di Roma. E quindi ci sono ormai dei personaggi della musica, della danza, del teatro ragazzi, dei burattini, che abitano questo spazio. E li troveremo online come una specie di guida all'ascolto, alla visione di quello che vedranno poi appena possibile. In questi giorni in particolare, il giovedì alle 18:30, siamo online con i dialoghi mediterranei a cura di Stefano Saletti, che cura per noi, per la Teatro Villa Confidi, il Festival Popolare di Musica, e quindi con i suoi ospiti, quelli che avremo visto in scena, facciamo delle chiacchierate musicali dove si parla di musica del Mediterraneo, si parla delle esperienze dei vari musicisti. Ieri avevamo Riccardo Tesi, abbiamo avuto Lucilla Galeazzi, avremo prossimamente altri nomi. E la, diciamo, il garbo, la grazia di Stefano Saletti nel condurli a scoprire questa musica, che è frutto di una ricerca bellissima che lui sta facendo da tanti anni. Abbiamo cose per bambini, perché tra poco, le prossime settimane, cominceranno una piccola rassegna di storie, di libri letti, che abbiamo chiamata A me gli occhi e anche le orecchie. Sono libri letti, ma abbiamo scelto 6 libri, diciamo rari, insoliti, non classici, e questi 6 libri verranno letti da voci importanti, da voci note, da attori, ma anche illustrati con delle tavole originali apposta per questa nostra piccola pillola di teatro e di racconto da grandi illustratori. Rispetto al circuito Teatri in Comune, quali sono le peculiarità del Teatro Villa Panfili? Teatro Villa Panfili sicuramente è un piccolo spazio in un posto meraviglioso, e questo piccolo spazio ci permette di avere la più grande peculiarità. Intanto siamo chiusi la sera, quindi ci siamo abituati a un pubblico che non esce volentieri la sera, che sono le persone più anziane, magari i bambini, i ragazzi, le famiglie, ma anche tanti giovani che ormai abbiamo abituato all'ora dell'aperitivo, sia serale ma anche quello mattutino, per esempio della domenica, a venirci a trovare. La peculiarità è il fatto che, essendo un posto piccolo, sono diciamo una visione e una partecipazione al teatro molto intima, a contatto con l'artista che è sul palco e con cui poi si può parlare, ci si può confrontare, è un po' un incontro ravvicinato, direi. Sicuramente è un bello spazio per gli spettacoli, diciamo, per tutti, no? Senza età, perché l'estate sul prato si sta bene, e perché spesso ci sono al contorno delle mostre o delle altre attività che fanno parte quasi di un arredamento, proprio perché vogliamo, l'abbiamo sempre detto, che questo spazio sia un salotto, una stanza più della propria casa, no? Il salotto bello dove andare, stare, studiare, leggere, incontrare le arti, tutte le arti. Sul web ci sarà modo di interagire con chi ne fruisce? Per alcune cose sì, alcuni sono contributi video già fatti ad hoc ma non in diretta, come ad esempio il Gesto non va in quarantena di Cecilia Sanchetti, che sono delle pillole tutti i venerdì che parliamo di jazz. Poi ci sono le dirette che si interagisce con la chat, no? E per cui c'è anche un contatto in qualche modo con il pubblico, perché si scrive, si risponde, e faremo sicuramente anche qualcosa di più, ma ci stiamo organizzando. Il nostro mestiere è lo spettacolo dal vivo, siamo contenti di cimentarsi su altro, ci sta anche stimolando ovviamente a creare cose nuove, però andiamo in punta di piedi, perché comunque è un altro territorio, però è un territorio bello dove il teatro può fare la sua parte, può fare il suo contributo. In chiusura ci lasci tutti i riferimenti internet? Sì, il programma è sul sito che è www.teatroverde.it e la pagina Facebook è Teatro Villa Panfili, siamo anche su Instagram, tutta la gestione e la programmazione è gestita dal Teatro Verde della Scuola Popolare di Musica di Donna Olimpia, quindi anche lì trovate moltissimo e avremo contributi anche sulla prova il teatrale di Giancarlo Pannarpano, di Emanuela Giordano, Andrea Calabretta, parecchio, ma anche per piccolissimi col format sing-along per musica inglese, che proprio i piccoli piccoli piccoli, e il format Fine Fiction per divulgare la scienza a parole semplici, curato da Valeriano Soltiti e Anna Maria Piccoli. Tic Online, hashtag incursioni artistiche di mutualità, le iniziative digitali dei teatri in comune. Un saluto e un ringraziamento a Veronica Olmi del Teatro Villa Panfili. Un abbraccio, in bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie, ciao! Con Valentina Marini del Teatro Biblioteca Quarticciolo per parlare delle iniziative digitali dei teatri in comune, Tic Online, hashtag incursioni artistiche di mutualità. Valentina, ben trovata. Grazie, grazie a voi, grazie per l'invito. Ci racconti? È difficile raccontare lo spettacolo dal vivo, devo dire, ed è ancora più difficile raccontare questa esperienza perché è nata dopo una grandissima riflessione su come permettere al nostro pubblico, ma al pubblico in generale appunto del territorio normanno, di quello dei teatri in comune, di riuscire a mantenere una attiva relazione con gli spazi che frequentemente abitano dal punto di vista culturale, ma soprattutto per noi fondamentale non cadere nello scivolone appunto di replicare sulla rete, sul web, quello che avevamo immaginato nella nostra programmazione live. Quindi il progetto Tic Online prevede una serie di contenuti originali, di proposte artistiche che abbiamo immaginato come create ad hoc per una fruizione web e soprattutto che coniugassero la relazione artistica e contrattuale con quanti più artisti e operatori e professionisti che avevamo precedentemente coinvolto nella nostra stagione, quindi la declinazione incursioni artistiche di mutualità nasce proprio da questo principio, quindi nel rispetto del lavoro e della ricaduta occupazionale, quello che era nato inizialmente come un surrogato rispetto alla possibilità di produrre attività dal vivo, in realtà per noi è stata una sfida culturale, una sfida di contenuti, quindi questa è una precisazione fondamentale che il direttivo del Teatro Biblioteca Quarticciolo ha immediatamente sposato per andare a immaginare qualcosa che fosse assolutamente specifico per la fruizione dal vivo. Abbiamo iniziato con TBQ Voices, che è un progetto di approfondimento culturale ideato da Valentina Valentini, che è il nostro coordinatore scientifico, e che appunto trova in una narrazione di intellettuali, critici, artisti, ma anche operatori e professionisti di settore, un blog online che appunto nasce come primo approfondimento di lettura pura. Accanto a questo abbiamo accostato una sezione web TV che invece appunto trasla quelle che sono delle proiezioni immaginarie di un'eventuale stagione da fruire live. E il primo appuntamento è quello del 13 di maggio, come appunto avete anticipato, alle ore 12, con l'incontro, il dialogo tra Marinella Guazzerini, noto critico e saggista specializzato appunto in danza e in danza contemporanea, e Enzo Cosimi, uno degli autori principali della scena contemporanea italiana. Enzo, tra le tantissime progettualità, tra le tantissime creazioni che ha firmato, ha creato in questa trilogia Ode alla bellezza un lavoro speciale che è La bellezza ti stupirà, che doveva essere in scena al Teatro Biblioteca Quarticciolo la prossima settimana. E quindi su questo mi sento di dire due parole sul senso di questo lavoro e quindi quello che loro andranno a sviscerare rispetto all'indagine, alla poetica che Enzo ha portato sulla scena. La bellezza di Superan è un progetto site specific che nasce ogni volta da un'umanità nuova, perché porta in scena le vite, le immagini, le storie di senza tetto, persone senza fissa dimora. E quindi ovviamente lavoro con un'umanità che tutto è tranne che abituata a un'esposizione scenica, un'esposizione di palcoscenico. Questo punto di vista che riguarda la marginalità, le periferie e questo tipo di vita parallela, di solitudine probabilmente interiore che l'universo, l'immaginario dei senza tetto ci suggerisce, diciamo tragicamente ci porta anche a guardare l'oggi, no? E la situazione, la dimensione emotiva che noi stiamo vivendo in questa condizione di isolamento sociale e anche talvolta culturale, appunto, laddove ci sono state recise tutte le relazioni, tutti i contatti con quelli che erano poi i contenitori che in qualche modo alimentavano la nostra vita dell'immaginario, la nostra vita artistica. Quindi il dibattito, la conversazione che Marinella e Enzo avranno in diretta sul nostro canale Facebook alle 12 di mercoledì partirà da questo punto, da questa base che è un po' stata la base di indagine su cui Cosimi ha sviluppato questo progetto che negli anni continua a essere sempre molto amato sia dal pubblico che appunto dai programmatori proprio per questa sua specificità e per le verità che racconta attraverso questa messa in scena così originale. Rispetto alla dimensione dal vivo, avranno gli appuntamenti più o meno la stessa densità? Gli appuntamenti sono calibrati, immaginati ovviamente sulla base che per noi è un must ed è una base importante del nostro indirizzo programmatico, che è quello di un orientamento pluridisciplinare, quindi andranno a investigare tutte le possibili forme di creatività con sia dimensioni di narrazioni, sia degli spaccati per la dimensione dedicata alle famiglie o ai bambini, al teatro ragazzi, quindi pillole dedicate a un pubblico più giovane, appuntamenti culturali di incontri con critici piuttosto che autori, ad esempio questo incontro tra Marinella e Enzo Cosimi, Marinella Guattini e Enzo Cosimi rientra nel contenitore più grande che noi chiamiamo ritratto d'autore, quindi ci sono vari autori sia teatrali, cinematografici e coreografi che verranno in qualche modo presentati attraverso le loro opere, un dialogo diretto con gli autori e una dimensione video, il tutto calibrato in durate che sicuramente non supereranno a seconda dei progetti la mezz'ora, proprio per non essere diciamo così troppo invasivi nella dimensione della fruizione attraverso la visione dal web. Non mancheranno anche dei progetti nati come corsi documentari o progetti di videodanza o appunto quanto possa essere stato immaginato da un punto di vista dei vari autori, però sempre e soltanto in una dimensione originaria per l'utilizzo digitale, non progetti in streaming, non surrogati di quello che invece un palinsesto live ci impone. Nel salutarci ci dai tutti i riferimenti web? Assolutamente, Teatro Biblioteca Guarticciolo, la nostra pagina Facebook, dove sarà presente appunto la diretta che verrà immediatamente al termine del dialogo live alle 12 di mercoledì 13 maggio, verrà traslata sulla nostra pagina web, il sito tvqvoices.com prevederà questa sezione speciale, appunto TVQ Web, dove tutte le attività e tutti i progetti che il palinsesto TIC Online mette in rete saranno poi consultabili per tutto il tempo della durata della nostra prossima stagione. Voglio precisare un'ultima cosa, questo progetto nasce come progetto condiviso con gli altri teatri in comune, quindi è un progetto di comunità nella comunità della grande rete dei teatri in comune che sono sotto il cappello del Teatro di Roma, quindi spero che sia poi una buona pratica anche per altre dimensioni progettuali come le nostre in altre città. TIC Online, le iniziative digitali dei teatri in comune, hashtag incursioni artistiche di mutualità, un saluto e un ringraziamento a Valentina Marini del Teatro Biblioteca Quarticciolo, un abbraccio, un in bocca grazie al lupo, a risentirci presto. Grazie, grazie. Con Antonio Sinisi, curatore del progetto editoriale Opere da Tre Soldi. Antonio, ben trovato. Ciao, ciao ragazzi, buongiorno. Ci racconti? Opere da Tre Soldi è una collana di libri digitale dedicata prevalentemente al teatro. È una raccolta di testi che possono andare dalla messa in scena alla saggistica e insomma attraversano il teatro nella sua forma scritta. Questa è la particolarità. Il rapporto con gli autori si basa su un discorso di 50% su ogni copia che viene donata, perché avviene questo con gli utenti che si avvicinano alla piattaforma operedatresoldi.eu. Loro donano questi tre soldi che sono 3 euro e il 50% va all'autore. Questa è la particolarità anche in rapporto al discorso artistico, al discorso autoriale, al discorso del lavoro, insomma. Ed è un progetto tutto digitale. Sì, è un progetto tutto digitale perché praticamente i libri sono nei formati PDF, EPUB e MOBI. E quindi nel momento in cui avviene la donazione vengono spediti via email i tre formati che possono essere letti sui vari book reader oppure sul computer, insomma su questi supporti digitali, quindi è interamente digitale come collana. Non si esclude che in futuro ci possa essere un allargamento sul cartaceo, che adesso è cominciata in questa situazione particolare, era già un'idea che avevo da diverso tempo, l'ho messa in pratica in questo momento di chiusura in cui siamo un po' tutti lupi solitari, però è una cosa che penso che debba continuare in futuro. Ecco, ci spieghi un po' meglio com'è nato il progetto? È nato come desiderio di avere la possibilità di leggere, ma forse di rileggere il teatro. In passato noi avevamo dei libri che potevano essere letti, che c'avevano, che facevano parte di testi che erano teatrali. Adesso forse un po' meno è possibile trovare magari in libreria la possibilità di leggere teatro. Ecco, questa è la cosa. L'altra cosa è che a me piacerebbe dare forma per cose che non hanno forma, nel senso che molte volte c'è, in questa fase particolare che stiamo vivendo in questi anni 2000, abbiamo un tipo di teatro che è più performativo, più fisico, più legato a delle immagini. A me piacerebbe che si tornasse anche a scriverlo questo tipo di teatro, che ci fossero delle possibilità di trascriverlo. Mi piacerebbe che invece di leggere come si legge normalmente il teatro, con un dialogo, un monologo, ci fossero degli appunti che sono stati scritti, e questi qui mi piacerebbe svelarli. Questa è la cosa che c'è dietro, insomma, tutto il progetto e l'architrave che c'è dietro. Tutto da solo o hai messo insieme una squadra? Per ora sono abbastanza lupo solitario. Questa cosa da una parte mi riempie tutta la giornata, dall'altra credo che in futuro ci sia necessità di persone che supportano, che sposano il progetto, che possano addirittura lavorarci, insomma. In questa fase iniziale hai messo insieme un po' di autori e autrici? Sì, sì, finora abbiamo pubblicato 10 testi. Sulla pagina possiamo trovare i testi di Alex Cantarelli, Emiliano Valente, Valeriano Solfiti e Anna Maria Piccoli, che hanno scritto una cosa insieme, Adriano Marenco, Mario Migliucci, Gabriele Linari, e adesso stiamo in fase di pubblicazione di testi di Damiana Guerra, Andrea Cosentino e Marco Andreoli. In questo senso come ti stai muovendo? Per conoscenze? Da una parte mi sono mosso invitando le persone che conoscevo direttamente, telefonandogli, raccontandogli il progetto, dall'altra mi arrivano comunque delle proposte, c'è una pagina proprio all'interno del sito dove si può accedere e si possono fare delle proposte, quindi ho ricevuto tante proposte da persone che non conoscevo, insomma, quindi penso che la cosa sta girando attraverso il passaparola, attraverso tante piccole notizie che ruotano, sta andando abbastanza bene. Una delle caratteristiche è l'economicità dell'operazione, nel senso il titolo dell'editrice rispecchia proprio la realtà. Sì, sì, sì, quella infatti è presa apposta, è un discorso di economicità, è un discorso legato all'avvicinarsi in maniera più facile a dei contenuti che magari possono essere stati estranei fino a questo momento. Sì, questi sono proprio tre soldi, nel senso che l'opera che io ricevo, tutte le cose che ho letto fino adesso, sono tutte quante cose eccellenti, quindi degne di essere lette, degne di essere tenute su un PC in questo caso. È veramente economico, dobbiamo dire così, anche se non legherei tanto la parola economia con questo discorso qui, nel senso che più legato al discorso di prezzi politici e di donazione, insomma di scambio che c'è tra l'autore che ti dona un qualcosa, un lavoro che c'è dietro chiaramente di impiantistica della libreria digitale, e il dono che fa il pubblico di questo, diciamo, prezzo politico di questa donazione. Ci spieghi un po' come funzionano le operazioni per gli autori e per i fruitori e ci lasci tutti i riferimenti web? Gli autori possono accedere alla pagina delle proposte all'interno del sito operadadelsoldi.eu, la pagina in particolare digitando o3s.pub/proposte, mentre per quanto riguarda i lettori possono andare alla pagina delle pubblicazioni, leggere eventualmente la sinossi e le note dell'autore, la biografia, e poi possono accedere alla pagina degli ordini. Il sito è molto molto semplice perché ci sono tre pagine in totale, in queste tre pagine è facile insomma barcamenarsi facilmente e trovare tutte le cose magari di cui si necessita. Ogni libro ha una sua pagina e un suo piccolo breve indirizzo e quindi tutti hanno la possibilità di accedervi, insomma, facilmente. I riferimenti sono operedatresoldi.eu, la pagina Facebook operedatresoldi, Instagram operedatresoldi e l'email operedatresoldi@gmail.com. Un saluto e un ringraziamento al curatore Antonio Sinisi. Un abbraccio, un in bocca al lupo e a presto. In bocca al lupo anche a te, in bocca al lupo a tutti quanti e grazie. Arrivederci alla prossima. Questa è tutta scena teatro su Radio Onda Rossa il martedì alle ore 15, trasmissione settimanale dedicata al teatro e agli eventi culturali. I podcast di spettacoli e interviste sono disponibili sul sito internet ondarossa.info alla voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.